I guadagni dei ministri e dei sottosegretari sono finalmente sul sito del governo. Meglio tardi che mai, tuona il senatore Lauro del PDL. Già, ma non potevano farlo prima loro? Se non lo dicevi prima! Come prima? Ma sì, se non lo dicevi prima! Ma prima quando? Ma prima, no? Si vedono i contatti, faccio una telefonata, al limite, ti faccio un leasing, se non lo dicevi prima!